Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'ultima puntata di Eclettica della settimana, di un venerdì di agosto che vedrà probabilmente meno persone all'ascolto rispetto alla norma. Penso che molti fra coloro che ascoltano tipicamente Eclettica siano partiti, se non pronti per partire per le loro vacanze. Però teniamo sempre presente la possibilità del podcasting, che potrà permettere a chiunque di riascoltarsi le trasmissioni di Eclettica quando magari ritorna dalle ferie, oppure se le scarica e se le ascolta direttamente in ferie da qualche parte in giro per il mondo. Lo sviluppo della mia filosofia ebbe origine nel seguente modo. Mia moglie, invitandomi ad assaggiare il suo primo soufflé, ne fece accidentalmente cadere una cucchiaiata sul mio piede, provocandomi la rottura di alcune falangi. Furono chiamati i medici, eseguiti gli esami e le radiografie, e mi fu ordinato di restare a letto per un mese. Durante questa convalescenza mi dedicai alla lettura delle opere dei più profondi pensatori dell'Occidente. Una fila di libri che avevo accatastato giusto per fronteggiare una eventualità di quel genere. In totale dispregio dell'ordine cronologico, attaccai con Kierkegaard e Sartre e poi passai lestamente a Spinoza, Kafka e Camus. Non mi annoiai affatto come avevo temuto, piuttosto trovai affascinante il modo in cui queste grandi menti attaccavano risolutamente la morale, l'arte, l'etica, la vita e la morte. Ricordo la mia reazione ad un'osservazione luminosa di Kierkegaard. Questo rapporto, che si correla alla sua propria intrinsecità, vale dire a se stesso, deve essersi formato in sé, oppure essere stato costituito da un altro. Tale concetto mi fece venire le lacrime agli occhi. Io sono il tipo che si trova in difficoltà se deve scrivere due frasi sensate sul tema «Un giorno allo zoo». Veramente quel passo mi risultava del tutto incomprensibile. E se Kierkegaard avesse semplicemente voluto divertirsi? Divenuto improvvisamente sicuro che la metafisica era il tipo di attività di cui da sempre avrei voluto occuparmi, afferrai la penna e buttai giù la prima meditazione. Il lavoro procedeva speditamente e in un paio di pomeriggi, escludendo il tempo per il sonnellino pomeridiano e per qualche passatempo rompicapo, completai l'opera filosofica, che mi auguro rimanga sconosciuta fino alla mia morte o fino all'anno 3000, qualunque sia la prima delle due eventualità, e che, modestamente, ritengo mi procurerà un posto di riguardo fra i più ponderosi pensatori della storia. Ecco, qui di seguito un breve saggio della parte principale di questo tesoro intellettuale che lascio ai posteri, o almeno fino a quando non arriverà la donna delle pulizie. Questo era l'incipit di La mia filosofia, da saperla lunga, di Woody Allen. Desire. you and me. It proved to keep them both apart for life. And so now we know that it's not enough to be in love. Not enough to be in love. Not enough to be in love. Not enough to be in love. Not enough to be in love. Frank andava a quello che risulta essere il ritorno, almeno da parte mia gradito, di Susan Vega. Questo su Eclettica, presente tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Eclettica che da ora spazia ai The Pigeon Detectives con un nuovo singolo dopo l'I'm Not Sorry, che ha fatto tanto parlare di loro e che l'ha portati anche in alto nelle classifiche in inglesi. Un altro singolo estratto sempre da Wait For Me, il loro album, singolo dal titolo Take Her Back, ed è impressionante vedere come la giovane formazione inglese di The Pigeon Detectives da qua a Inverno Inoltrato suoni praticamente quasi sempre. Impressionante vedere la loro lista dei concerti, non solo in Inghilterra ma anche in giro per l'Europa. È sicuramente il loro momento. Pollici, complimenti. Hai visto? Che figura. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido

se effettivamente ciò è interamente conoscibile. Oppure, ce ne siamo semplicemente dimenticati e siamo troppo imbarazzati per dirne alcunché? Cartesio accennò al medesimo problema quando scrisse: «La mia mente non può mai conoscere il mio corpo, sebbene abbia acquisito una discreta familiarità con le mie gambe. Per conoscibile, detto per inciso, non intendo ciò che può essere appreso attraverso la percezione dei sensi o che può essere afferrato dalla mente, bensì più di quello che può essere definito come conosciuto, ossia il possesso di una conoscenza della conoscibilità o almeno di quel qualcosa di cui potete accennare ad un amico». Possiamo noi realmente conoscere l'universo? Dio mio, è già abbastanza difficile ritrovare la strada per uscire da Chinatown. Tuttavia questo è il punto. Esiste qualcosa al di fuori della nostra coscienza? E perché? E perché devono fare tutto quel chiasso? Finalmente, non ci può essere alcun dubbio che l'unica caratteristica della realtà è la sua mancanza di essenza. Il che non è affermare che essa non possegga alcuna essenza, ma che semplicemente manca di essa. La realtà di cui sto parlando è la stessa descritta da Hobbes, solo che un po' più piccola. Perciò il detto cartesiano «cogito ergo sum» potrebbe essere meglio espresso come «Ehi, c'è Edna con un sassofono!». Ne consegue quindi che per conoscere una sostanza o un'idea dobbiamo metterla in dubbio e così, dubitandone, arrivare a percepirne le qualità che possiede nel suo stato finito, che realmente sono nella cosa in sé o proprie della cosa in sé, o di qualcosa o di nulla. Se questo è chiaro, possiamo per il momento tralasciare l'epistemologia. Questo era ancora La mia filosofia, da Saperla lunga, di Woody Allen. We'll be right back. Visto quanto detto in inizio di Eclettica sulla possibilità di scaricare, possibilità che ovviamente c'è sempre tramite il podcasting, le trasmissioni, ma l'ulteriore possibilità, dato il periodo dell'anno, di ascoltarvele, di farne colonna sonora delle vostre vacanze estive, allora non volevo assolutamente che mancasse da questa colonna sonora una delle più belle canzoni del 2007 di Eclettica, ovvero sia The Sound of Beating Wings dei Jennifer Ever. E questo è quanto avvenuto negli scorsi minuti. Prima ancora ci eravamo ascoltati un estratto da quello che è l'ultimo album dei Wilco, un estratto che aveva per titolo Side with the Seeds, e chiudiamo invece con una band che sicuramente delle nuove band inglesi, loro vengono da Liverpool, quella più vicina allo spirito dei Clash, allo spirito di commistione dei generi dei Clash. Non voglio dire che siano assolutamente allo stesso livello, però lo spirito è sicuramente lo stesso. Loro si chiamano The Dead Sixties. Per me, La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!